Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, bentrovati, 16.33, Luca Tremolada, che dà il buongiorno a Luca Dello Iacuo. Buongiorno. Buongiorno. Ce lo diamo a vicenda. Oggi parliamo di un esperimento a metà, al confine tra tecnologia e antropologia, tra creatività e cellulare, un qualche cosa che è successo al Politecnico di Milano, che racconta bene come nasce, come si sviluppa l'innovazione. Noi... E come le buone idee poi trovano un mercato. E come tra l'altro per produrre nuove idee non serve essere uno specialista o un super tecnico, per cui insomma il tema è assolutamente interessante. Ora sentiamo le news perché è successo un sacco di cose. Google aggira la censura di Pechino. Da ieri la versione cinese del motore di ricerca dirotta il traffico verso Hong Kong. Restano però alcune limitazioni imposte dai filtri internet. Google non chiude gli uffici commerciali e i dipartimenti di ricerca in Cina. La decisione è arrivata dopo 3 mesi di trattative con Pechino. Google ha annunciato per la prima volta di andarsene all'inizio di gennaio. Aveva scoperto un attacco di pirateria informatica contro il servizio di posta elettronica. Secondo le previsioni degli analisti, il motore di ricerca cinese Baidu potrebbe arrivare al 95% del mercato. Secondo Pechino, la scelta di Google è esclusivamente commerciale e non avrà conseguenze nei rapporti con gli Stati Uniti. Ancora internet. La chiocciolina degli indirizzi di posta elettronica entra nella collezione del Museo d'Arte Moderna di New York. Il simbolo esiste dal VI secolo. In latino indicava lo spostamento verso un luogo. In seguito ha assunto altri significati, come serpente, cane e coda di maiale. La diffusione globale arriva con internet. Un programmatore degli Stati Uniti, Raymond Tomlinson, sceglie il segno @ per indicare i domini di posta elettronica. Passiamo alle scienze. 4 aspiranti astronauti hanno accettato di restare in isolamento per 18 mesi. L'obiettivo è di simulare una missione diretta su Marte. Dopo 250 giorni, l'equipaggio sarà diviso in 2 parti e sperimenterà il contatto con la superficie del pianeta rosso. All'iniziativa partecipa un ingegnere italo-colombiano, Diego Urbina. Contenti loro, viene da dire. Però lasciamo perdere i marziani o i provetti marziani. Insomma, la notizia della giornata di ieri è quella di Google. Noi, come sapete, l'abbiamo seguita questa vicenda, questo braccio di ferro, questo affair Google fin dall'inizio. Ci sembra di capire che non è un ritiro vero e proprio. In qualche modo, insomma, Google ha portato le sue attività ad Hong Kong, ha detto io non faccio più censura, però la continua a fare la Cina. Però si lascia un po', sì, la porta aperta per poter rientrare. Sì. Per adesso si ha spostato le attività del motore di ricerca, poi che appunto è una parte poi di tutte le attività di Google, le ha spostate in Cina, e quindi i cinesi che vogliono fare delle ricerche su internet vengono dirottati poi su Hong Kong, dove, a dire la verità, poi non è che non ci sia la censura, ma c'è appunto anche una censura che è quella dei filtri di internet che sono attivi in tutta la Cina, e Hong Kong fa parte della Cina. Insomma, il firewall cinese è alto e solido come prima e più di prima, non è cambiato nulla per i netizen del continente cinese, continente della nazione cinese, per cui insomma non siamo a una svolta, non siamo a un cambiamento, siamo a un'ennesima fase di passaggio, che non so cosa sia prodromica, che cosa, tra l'altro. Cioè... Sì, dobbiamo aspettarci anche di vedere che cosa faranno i cittadini cinesi, cioè se poi protesteranno o quali saranno i loro comportamenti adesso che comunque, diciamo, il dissidio con Pechino è diventato più intenso e molto più visibile. Tra l'altro non solo con Pechino, perché ho letto anche una lettera di diffidenti che è stata pubblicata su internet, dove le critiche erano rivolte sicuramente all'autorità cinese, ma anche al motore di ricerca, alle motivazioni commerciali, alle motivazioni di business, per cui insomma di fatto chi naviga dal suolo cinese è arrabbiato della situazione in sé. Non parteggia per nessuno delle due parti, questa è un po' l'impressione. Sì, però è anche una difficoltà che adesso si trovano ad affrontare, e forse sarà anche l'occasione per vedere se poi riescono ad acquistare voce e se, a, e a farsi sentire anche su internet, come è stato in passato. Vedremo. Per molte altre questioni. Noi staremo qui a seguire in continuazione questa vicenda, perché? Perché è una metafora un po' di quello che sta succedendo a Internet e Libertà, per cui giustamente la seguiamo e la monitoriamo. Però passiamo un po' al tema della puntata, questo team del Politecnico di Milano che ha sviluppato applicazione per musica, intrattenimento e passatempi. Noi abbiamo in collegamento Fabio Diliberto, che è professore del corso di laurea di Product Service System Design. Ho detto giusto? Direi di sì. Buonasera a tutti. Allora, ci spieghi, anzi, prima di spiegarci un po' che cosa avete combinato, sentiamo la scheda di Luca Dello Iacovo che un po' delinea il progetto. Musica, intrattenimento, passatempi. Al Politecnico di Milano un gruppo di studenti ha sviluppato applicazioni per cellulari. È un percorso al confine tra tecnologia e antropologia. Osservare le abitudini delle persone, analizzare le loro esigenze, progettare software da installare sui telefoni. I partecipanti sono originari di 7 nazioni e frequentano il corso di laurea di Product Service Design. Le applicazioni migliori sono state premiate in un concorso organizzato da Sony Ericsson e saranno distribuite sui cellulari. Allora, il primo passaggio fondamentale è capire che cos'è il Product Service Design. Io partirei da questo. Allora, intanto ci tengo a precisare, si tratta di Product and Service System Design, quindi è il sistema del prodotto e del servizio. Me l'ha resa ancora più complicata. Esatto. Sostanzialmente si tratta di una combinazione di discipline, quindi non semplicemente design di prodotto, ma dell'esperienza prodotto che mette insieme anche il disegno del servizio spesso al prodotto associato. Quindi diciamo design a 360 gradi. Quindi voi sostanzialmente qual è la filosofia? Mettiamo intorno a un tavolo degli studenti che non hanno delle specializzazioni, delle competenze tecniche e tecnologiche particolari e proviamo a chiedere loro di elaborare delle applicazioni per il mondo della telefonia mobile, cioè di inventarsi dei servizi, di disegnare dei servizi, di immaginare dei servizi che possano essere utili. Diciamo che gli studenti hanno delle competenze, sono multidisciplinari, nel senso che in questo corso confluiscono studenti internazionali, come avete chiaramente espresso, ma arrivano anche con delle formazioni molto diverse, arrivano dal design di prodotto tradizionale, dalla comunicazione, dalla grafica, dall'architettura, addirittura dall'ingegneria, per cui diciamo che hanno una formazione sì tecnica, ma una sorta di DNA, ma una comprensione anche del design a 360 gradi, si può parlare di design thinking come approccio, no? Però quello che fanno è pensare quali possono essere poi le applicazioni del software e poi il software diciamo viene sviluppato altrove, ecco, la parte informatica viene fatta altrove. Diciamo che la parte di sviluppo delle interfacce, allora l'interfaccia è uno delle esperienze o diciamo le modalità di interazione con questa nuova piattaforma di prodotti che Sony sta per lanciare, è una delle esperienze che i nostri studenti sono in grado di attuare, di disegnare per così dire. Per quello che riguarda la parte dello sviluppo, gli sviluppatori che diciamo si occuperanno della parte di implementazione, quindi la messa in opera delle applicazioni, sono stati coinvolti all'interno del workshop sin dalle prime battute, in modo da come dire, sostenere i ragazzi con delle linee guida che potessero essere... Ecco, però professore, proviamo a dare però un contesto, cioè perché stiamo parlando di questo esperimento? Mi dica se ho torto, perché evidentemente nel giro di 2 anni è successo qualche cosa nel mondo della telefonia, ovvero che il telefono è diventato qualcosa di altro da un servizio di trasmissione e ricezione della voce. Queste applicazioni in un certo senso vanno in questa direzione, cioè cercano di reinventarsi un utilizzo della telefonia mobile diverso, che ha più forse a che fare con il computer che con quello di uno strumento di telecomunicazione. Su questo tema servono idee, mi sembra di capire, serve più un approccio forse umanista, più un approccio sui servizi che di carattere tecnologico. Assolutamente sì, la tecnologia di per sé non ha mai risolto, diciamo, Non è mai stata la soluzione, ecco. È importante perché sottolineare il fatto che l'approccio user centered di per sé è importante, quindi partire dalle persone. La tecnologia ha una funzione se tiene conto delle persone che la utilizzeranno. E quello che hanno fatto gli studenti è guardare anche ben oltre, quindi non soltanto il telefono come computer mobile, ma addirittura hanno guardato a degli scenari futuri, hanno pensato a gestualità, a ritualità, se ce vogliamo. Ce ne dica qualcuno di questi scenari futuri, di queste nuove gestualità? Allora, è una domanda difficile, nel senso che chiaramente le idee sono ancora in qualche modo protette da un velo di confidenzialità. Ecco, però se io volessi per esempio sviluppare un'applicazione per la musica, di che cosa dovrei tenere conto in un'ottica di design? Cioè, quali sono quei punti importanti, ecco, quei principi per sviluppare un'applicazione, per far sì che un'idea poi possa crescere? Sicuramente bisogna esplorare il mondo della musica, capire come si fruisce la musica oggi, che sembrerà banale ma è importante. Se pensiamo soltanto allo sviluppo dal Sony Walkman, che descriveva una musica personale, fino all'iPod, alle feste diciamo organizzate nelle stazioni delle metropolitane in totale silenzio, ognuno che balla al ritmo della propria musica, fino ad arrivare poi alla condivisione attraverso casse di quella che era diventata una musica personale, quindi parlo del Walkman, della musica portatile. Pensiamo a scenari futuri dove la musica potrà essere condivisa, dove si potrà per esempio fruire la musica secondo il proprio stato d'animo e quindi magari accedere alla musica non attraverso la selezione di un brano, ma attraverso altri sensi, attraverso altre modalità, come dire. Ecco, Diliberto, adesso noi diamo la linea al traffico, ma lei lo sa che nella seconda parte della trasmissione sarà chiamato a farmi almeno due scenari e due esempi, perché so che non potete dire nulla perché avete un contratto con Sony Ericsson, però insomma due esempi ce li dovete fare. Nova Lab 24. Allora, io mi sono appena consultato con Dello Jacopo. Siccome il professore è restio, non ci vuole raccontare quello che hanno fatto, noi abbiamo deciso di chiederlo direttamente a Martina Bertoli, che è una studentessa che non solo ha partecipato a questo esperimento, ma che ha anche vinto. Buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, lei faccia conto che non ci sta ascoltando il professore, che non ci sta ascoltando Sony Ericsson e soprattutto che non ci sta ascoltando iPhone, Apple, Nokia. E magari, ecco, ci può aiutare a capire a che cosa si è ispirata per fare la sua applicazione? Allora, che cosa ha visto, ecco, in giro per immaginare poi la sua applicazione, che può essere anche un esempio utile poi per chi ci ascolta e che vuole progettare una cosa simile. Allora, l'ispirazione è nata in generale dall'osservazione un po' del mondo urbano che ci circonda e quindi ci siamo un po' riferiti alla città come punto di riferimento, al modo in cui diversi personaggi la possano fruire. Oltre a questo... No, beh, pochino un po' più nello specifico, un po' più nello specifico si può fare, eh? Cioè è concesso, me l'ha detto il professore. Sì, ho sentito il professore. Diliberto, no. Mi dia una mano. Io se posso entrare giusto in salvataggio dei nostri studenti, perché hanno un divieto assoluto e hanno firmato, tra l'altro questo è importante perché questa non è solo un'esercitazione accademica, ma è una simulazione reale di quella che sarà quello che sarà il loro rapporto con l'industria, con i brands per cui lavoreranno. Quindi uno scenario, cioè, dicendo che lo scenario è quello che non potranno parlare in radio né in casa né in famiglia. No, direi che uno scenario, ecco, mettiamola così, alcune delle applicazioni hanno lavorato sull'idea di poter liberare la propria espressività urbana, tra virgolette, come diceva giustamente Martina, che tradizionalmente per esempio è legata al graffitismo, al tagging, no? A lasciare la propria firma, piuttosto che ad altre forme di arte urbana. Legandole a nuove gestualità che possono avvenire attraverso la nuova piattaforma di telefonini Sony Ericsson, che sono molto compatti, molto portatili, assolutamente performanti. Per cui voi avete ragionato come dei punk, cioè di sporcare le città senza sporcarle? Assolutamente. assolutamente sì, la sostenibilità sociale, ambientale è stato uno dei temi, diciamo, forti, insieme poi con altre modalità di interazione, sia tra persone, sia con l'ambiente, sia con il mezzo elettronico, con la tecnologia. E quindi, non so, altre applicazioni si muovono in una direzione in cui si possa facilitare un tipo di interazione un po' più animale, tra virgolette, priva di filtri razionali. Quindi, se abbiamo capito, ecco, si tratta di espressività, quindi di come le persone si possono esprimere. Lo possono fare in modi diversi, lo possono fare con immagini, lo possono fare con la musica, lo possono fare scrivendo. E tutto questo poi cambia rispetto a prima, perché tutte queste informazioni poi si possono passano attraverso il cellulare e poi si possono condividere, diciamo, su internet o in altri modi. E questo è come se fosse una città arricchita. Il discorso che stiamo ascoltando è anche quello di dire: guardate, ci sono degli spazi nella città che in genere non siamo abituati a vedere, una città che magari si vive in modo un po' grigio, se vogliamo, però andando a magari fotografare qualcosa o andando a raccogliere dei suoni o andando a raccogliere, ecco, la parte, cose, fai un po' di archeologia industriale, insomma, esatto, o digitale in più propriamente, insomma, si dà un nuovo volto alla città. Tu sei convinto dello Jacopo? Ma io l'ho visto, per esempio, per New York. Se vedi magari su internet, sui siti come Flickr dove si condividono le immagini, o su YouTube, vedi che magari dei quartieri che sono molto più tristi visti dal vivo, invece su internet acquistano un'identità. Ecco, quello che magari hanno di differente, dici, è l'espressività. Cioè, una periferia disadattata è una periferia disadattata, però insomma con qualche fotografia... No, certo, è chiaro che da questi strumenti passa anche un nuovo modo di vivere la città e di raccontarla e di raccontarsi. E un altro modo di fare ricerca e di studiare applicazione è quella che hai scovato tu. Sì, che ha un nome proprio. Sì, che si chiama Innocentive ed è una grande piattaforma per raccogliere idee di ricercatori, come ascolteremo poi nella scheda. Internet è un laboratorio aperto. Sono 180.000 i ricercatori scientifici sul network Innocentive. Accettano le sfide tecnologiche irrisolte dalle imprese. Anche in settori di frontiera, biotecnologie, genetica, informatica biomimetica. I partecipanti vincono premi in denaro fino a $1,000,000 se risolvono i quesiti scientifici. Secondo una ricerca dell'Università di Harvard, hanno un'elevata probabilità di successo anche persone con specializzazioni differenti dal campo disciplinare della gara. Alle competizioni di Innocentive partecipano concorrenti da 200 nazioni. La piattaforma tecnologica ammette anche progetti promossi da organizzazioni non profit. Quindi questo è un altro modello per inventare. Sì, per raccogliere poi delle competenze specialistiche. Cioè, qui sono i ricercatori, gli scienziati che vanno su questa piattaforma, trovano delle sfide che sono state poste da aziende o da istituti di ricerca e propongono delle soluzioni. Le soluzioni migliori poi ricevono un premio. E questa cosa ha funzionato abbastanza bene, se appunto pensi che ci sono 180.000 persone che danno anche dei premi. Ci sono anche molti italiani che hanno partecipato e che hanno vinto. Sì, e dimostra anche come c'è un internet aperta che raccoglie idee e le traduce in prodotti. Però in questo caso non hanno il divieto di raccontarle. Professore, come è un mondo più aperto. Questo chiaramente dipende dagli accordi presi con il nostro sponsor, con Sony Ericsson. Però sicuramente tra al massimo un mese e mezzo saremo nelle condizioni di raccontarvi molti più dettagli su quello che è stato il contenuto del workshop, e chiaramente vedrete anche delle applicazioni. Va bene, allora tra un mese e mezzo saremo ancora vivi, inviteremo Marina Bertoli e Fabio Di Liberto. Io ricordo che gli indirizzi internet soprattutto saranno tutti sul Twitter di Nova Lab 24, 24, che è www.twitter.com/novalab24. L'abbiamo detto insieme, siamo anche carini, compreso anche l'indirizzo del come si chiama? Di Facebook? No, di Innocentive. E poi di Innocentive, che appunto poi troverete su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/novalab24. Siamo sfumati, ci vediamo domani, ci sentiamo domani alle 16:30. Nova Lab 24.